Letture di Radio 24. Si intitola Morte al Cinevillaggio, l'ultimo romanzo scritto da Umberto Lenzi, regista cult noto per i polizieschi come Roma Mano Armata e Milano Odia, La Polizia Non Può Sparare, e per i gialli come Sette Orchidee Macchiate di Rosso e Gatti Rossi in un Labirinto di Vetro. E gialli sono anche i suoi romanzi, ambientati nel mondo di Cinecittà degli anni 40, storie nelle quali i personaggi e le loro avventure si mescolano a persone realmente esistite e a fatti di cronaca. Questa volta l'azione si svolge nel febbraio del 1944 e vede l'investigatore privato Bruno Astolfi impegnato a proteggere la figlia del commendator Baglioni Garlaschi, che ha seguito il marito, l'attore Lino Plisman, impegnato nella realizzazione di un film presso il neonato Cinevillaggio di Venezia. La sede della Questura di Venezia era situata in prossimità del Ponte degli Scalzi, nel sestiere di Santa Croce, a 200 metri da Piazzale Roma, che dalla città lagunare è il punto nevralgico ove converge e affine la carrozzabile da Mestre. Dovetti aspettare quasi mezz'ora, in una sala d'aspetto gelida e dalle pareti scrostate, prima che il dottor Diego Cammarata, dirigente della squadra mobile, si decidesse a ricevermi. «In che cosa posso esserti utile?» chiese con voce atona dopo un lungo silenzio. Gli spiegai i motivi per cui ero venuto a Venezia. Gli accennai al Baglioni Garlaschi, alle sfortune sentimentali della figlia Paola e a suo marito, l'attore cinematografico Lino Plisman, che si era giocato il Beau Mercier a poker. «Può darmi qualche informazione su di lui?» aggiunsi. «Attualmente risiede qui e sta lavorando con la Cines». Cammarata si alzò e andò a frugare tra il cumulo di cartelle allineate su un tavolo. Ne prese una e tornò a sedersi. «Ho questo dossier su Plisman». Non nascosi un moto di sorpresa. «No, nessun precedente di carattere penale. Tutti hanno un dossier al giorno d'oggi. Sono le nuove disposizioni delle autorità repubblicane, tese ad accertare il grado di fedeltà alla nazione delle persone di qualche rilevanza sociale». Mi lesse alcuni documenti allegati alla cartellina. Lino Plisman aveva lavorato come contabile di banca a Merano, sua città d'origine. Licenziato nel 1941 per alcune irregolarità amministrative non meglio accertate, si era trasferito a Roma e aveva iniziato con alti e bassi la carriera di attore cinematografico. Secondo voci correnti, pare sia dedito al gioco d'azzardo e che frequenti spesso ballerine e attricette delle compagnie di rivista. «Nient'altro? Tutto qui», concluse, richiudendo la cartella. «Uno scriteriato, più avventuriero che attore. Hai avuto sentore di liti in famiglia? Mi lasciai sfuggire e fu un errore di cui immediatamente mi pentii. No. Non è roba di nostra competenza. Non avevo altro che mi tratteneva, per cui mi alzai e gli porsi la mano. Grazie, cammarata. Arrivederci in tempi migliori». Cenai al ristorante La Colomba, un locale alla moda frequentato da giornalisti e gente di cinema, la cui proprietaria era nota per chiudere un occhio sui bollini della tessera. Ero di pessimo umore, scontento di me. Mi rendevo conto di non aver approfondito in modo adeguato la personalità di Plisman e valutato nell'ottica giusta i rapporti tra lui e Paola. Qualcosa che non sapevo definire mi sfuggiva. Sentivo oscuramente che avrebbero potuto verificarsi degli eventi spiacevoli. La figlia della padrona, una brunetta sculettante e tutta pepe, mi servì il piatto unico stabilito dalle disposizioni di legge. Una grossa porzione di polenta di mais condita con succulenti pezzi di coniglio o gatto in salmì. E per dessert un budino poco dolce preparato con uova in polvere e latte di dubbia provenienza. Sospirai al pensiero di una bistecca fiorentina al sangue con contorno di fagioli al fiasco, fata morgana della mia vita ormai da più di un anno. Deluso, detti fondo alla bottiglia di prosecco e tornai a piedi in albergo. Sprofondai in un sonno agitato, pieno di incubi che avevano al centro Elena. Elena, tutta vestita di nero, che piangeva a un funerale rincuorata dal bieco Patanè, era al mio funerale. Mi vedevo giacere immoto in una bara coperta di fiori rossi all'interno di uno strano cimitero. Sapevo di non essere morto, ma non riuscivo a muovermi, a comunicarlo a Elena, né tantomeno a coloro che si apprestavano a inumarmi in una fossa. Ero al colmo della disperazione. Già i necrofori stavano calando la bara, allorché d'improvviso squillò perentorio il telefono e il sogno svanì. Balzai angosciato a sedere sul letto e con mano tremante afferrai il ricevitore. Riconobbi immediatamente la voce stridula di Paola Baglioni Garlaschi. «Signora Astolfi, finalmente! Sono fuori di me, disperata. La prego, venga subito a casa mia, ho bisogno di aiuto». Rimasi alcuni istanti confuso, incapace di rendermi conto della situazione. Sbirciai l'orologio sul comodino. Segnava le 11:45. «Ma è quasi mezzanotte», obiettai. Attraverso il ricevitore percepii dei singhiozzi isterici, alternati a parole senza senso. «Che cosa è successo?» chiesi allarmato. «Una cosa terribile, la scongiuro. Non mi abbandoni. Venga immediatamente». Balzai giù dal letto. «Si calmi, Paola. Tra un quarto d'ora arrivo», dissi in tono autoritario e chiusi la comunicazione. Lungo i canali oscuri che si dipartivano da San Marco, immersi in un silenzio di tomba, sprizzava una leggera brezza. L'aria era appiccicosa, satura di umidità. Allorché Paola mi aprì la porta, ebbi all'istante la percezione che qualcosa di estremamente grave fosse accaduto. La ragazza, che indossava un abito da sera plissettato e dei tacchi a spillo, appariva stravolta con gli occhi torbidi, dilatati e i capelli scomposti. «Finalmente, credevo che non venisse più», balbettò con voce alterata dall'emozione. E si volse a indicarmi qualcosa vicino alla porta di comunicazione con la camera da letto. Mi avvicinai e un brivido mi passò nella schiena. A terra giaceva il corpo senza vita di Lino Prisman. Una chiazza di sangue vermiglio sporcava la camicia avorio e si espandeva sulla vestaglia raggrinzita che copriva in parte il cadavere. Mi chinai su di lui e constatai che era stato centrato al torace da due proiettili di pistola. La morte doveva essere stata pressoché istantanea. Non c'era traccia dell'arma del delitto. Solo i bossoli risaltavano sul pavimento lucidato a cera. Detti un'occhiata attorno, scorsi la bottiglia di whisky sul tavolo con accanto un bicchiere semivuoto. Doveva aver bevuto parecchio, Paola. Infatti la sua persona emanava ancora un forte odore di alcol. «È morto, vero?» farfugliò evitando di guardarlo. «Sì», dissi, e la spinsi dolcemente a sedere su una sedia. «Mi racconti dal principio». Le porsi un fazzoletto con il quale prese ad asciugarsi meccanicamente gli occhi. «Questa sera ero andata a un concerto di Tito Schipa alla Fenice in compagnia di un'amica, Milena De Magistri. Quando sono tornata a casa, alle 11, ho trovato Lino a terra, come lo vede lei adesso. Mi sono resa conto che qualcuno gli aveva sparato e che...» Scosse la testa e non riuscì a trattenere i singhiozzi. «Perché non mi ha chiamato subito? Erano le 11:45 quando è squillato il telefono. Che cosa ha fatto in tutto quel tempo?» Paola si strinse nelle spalle. Appariva inebetita, confusa. «Non lo so», rispose con un filo di voce. «Ero spaventata, fuori di me, e sono andata a chiudermi in camera. Non connettevo più, non avevo coscienza dello scorrere del tempo. Solo quando mi sono ripresa ho pensato a lei». «Quanta cocaina hai inalato?» chiesi fissandola negli occhi. «Solo una striscia», ammise flebile, evitando il mio sguardo indagatore. «Ma non sono stata io a sparare a Lino, glielo giuro», esclamò poi, rialzando la testa con espressione ferma. «Le credo», sospirai. «E quando la interrogheranno, chiariremo la sua posizione. Ma non neghi di aver fatto uso di cocaina e whisky. Sarebbe controproducente». Mi avviai a passi decisi verso il telefono. «Cosa fa?» chiese impaurita. «Chiamo la polizia. O lei ha un'idea migliore». Un'ora dopo, l'appartamento era pieno di questurini. Oltre agli esperti della scientifica, guidati dal commissario Cammarata che avevo buttato giù dal letto con la mia telefonata, c'era il medico legale, un dottore anziano di modi spicci e di poche parole, che aveva appena effettuato un sommario esame del cadavere. Secondo costui, l'omicidio di Lino Prisman era stato commesso tra le 10 e le 11 della notte. Ne facevano fede la temperatura corporea e lo stato di rigidità cadaverica appena iniziato. Le ferite mortali erano state causate da due proiettili sparati da breve distanza con una pistola semiautomatica calibro 6,35, uno dei quali aveva raggiunto il cuore all'altezza del ventricolo sinistro, provocando una vasta letale emorragia. Maggiori particolari sarebbero emersi dall'autopsia e dall'esame balistico dei bossoli, per cui fu dato ordine ai portantini di trasferire il corpo all'Istituto di Medicina Legale. Dopodiché ebbe inizio l'inchiesta vera e propria. Cammarata mi pregò di riferirgli quanto di mia conoscenza. Spiegai che avevo trovato Paola Baglioni Garlaschi in preda a un comprensibile shock e che ero sicuro della sua completa estraneità al delitto. L'ex seminarista dell'Accademia di Polizia mi ascoltò con interesse, quindi fece un'osservazione che anch'io avrei fatto al posto suo. Una pistola 6,35, piccola e poco pesante, è considerata nella casistica un'arma da donna. Si volse affabile verso Paola, che ascoltava rigida in piedi. «Lei ne possiede una, signore?» Con mia grande sorpresa, dopo una lieve esitazione, Paola rispose affermativamente. una Browning con il calcio di madreperla, un regalo di mio padre. Ho regolare porto d'armi, visitato dalla gendarmeria tedesca. Il volto del commissario si aprì in un'espressione molto meno affabile. «Dove tiene questa pistola?» Paola rispose senza scomporsi. «Nella tasca della pelliccia, la porto sempre con me. Sa, di questi tempi, capisco», annuì il poliziotto. «Le dispiace mostrarcela». Paola si spostò in camera da letto. La pelliccia di Castoro giaceva sul letto. La ragazza la sollevò e frugò in entrambe le tasche sotto gli sguardi interessati dei poliziotti e del sottoscritto. Ma in entrambe le tasche non c'era traccia della Browning 6.35. Erano vuote. Paola scosse la testa disorientata. «Non riesco a capire. Quando sono andata con Milena a teatro l'avevo qui, nella tasca destra. Qualcuno deve averla rubata quando ho lasciato la pelliccia al guardaroba. Il guardaroba del teatro ha degli addetti alla custodia, signora». Prima che Paola, frastornata, potesse replicare, la porta dell'appartamento si aprì e fece il suo ingresso, scortata da due agenti della squadra mobile, una bella ragazza dai capelli castani e i grandi occhi svegli, che si affrettò ad abbracciare la padrona di casa. «Paola, che disgrazia! Su, cara, fatti forza, non buttarti giù. Io ti sono vicina e in qualsiasi circostanza puoi contare su di me». «Grazie, Milena», disse commossa la figlia del commendatore, e aggiunse: «Spiega al commissario cosa è successo a teatro quando c'è stato l'allarme aereo». Milena De Magistri assentì e si volse con espressione compunta a Cammarata. «C'era una terribile confusione. Quando è suonata la sirena, verso le 8:30, tutti si sono precipitati al rifugio, anche le maschere e i custodi del guardaroba. Lo stato di allarme è durato circa un quarto d'ora, poi ognuno ha ripreso il suo posto in sala e il concerto è continuato senza ulteriori incidenti. Ma cosa c'entra questo con l'omicidio di Lino Plisman?» Mi affrettai a intervenire prima che Cammarata sminuisse il peso della dichiarazione della De Magistri. «Se ho ben capito, signorina, il guardaroba del teatro è rimasto incustodito per circa un quarto d'ora». «Sì, se ne sono andati tutti di corsa al rifugio». Il mio ex collega di accademia scosse la testa dubbioso e puntò l'indice verso Paola. «Chi sapeva, signora, che lei era solita tenere la pistola nella tasca della pelliccia?» Paola si strinse nelle spalle. «Lo sapeva tutta Venezia, commissario. 10 giorni fa, in piazza San Marco, un borsaiolo tentò di strapparmi la borsetta. Io estrassi la pistola di tasca e gliela puntai contro, impedendogli la fuga. Poi accorsero le guardie e se lo portarono via. L'episodio, il giorno dopo, fu descritto con tutti i particolari sul Gazzettino. C'era il mio nome e cognome». «Stando così le cose», ripresi rivolto a Cammarata, «chiunque a conoscenza del fatto può essersi introdotto nel guardaroba per sottrarre la Browning dalla tasca della pelliccia. Qualcuno che aveva in odio Plisman e ha commesso il delitto con la pistola appartenente alla moglie, allo scopo di far ricadere la colpa su di lei». L'ex seminarista scosse la testa. «È molto più attendibile, mio caro Astolfi, che sia stata la signora a sparare al marito. A conti fatti ha avuto tutto il tempo di far sparire la pistola prima di telefonare a te». Abbozzai un sorrisetto di circostanza. «È l'ipotesi più scontata, ma ha un difetto. Manca del movente». «Al contrario», disse Cammarata facendo un cenno a uno dei suoi agenti. «Il movente c'è». L'agente aprì la porta e introdusse Niobe, la fantesca veneta che ben conoscevo per averla incontrata 2 giorni prima. Aveva un'espressione corrucciata ed evitò per quanto possibile di guardare Paola, che assisteva sconcertata e incapace di proferire parola. «Signora Toffolin», esordì gentile l'ex seminarista divenuto sbirro repubblicano per motivi geografici, «a lei risulta che vi fosse armonia tra i coniugi Plisman?» «Sior mio, è la stessa che Xe tra Gato e Pantegana», borbottò disgustata la servante. «Vale a dire?» incalzò spietato il poliziotto. «Vale a dire che nel pomeriggio vi era stata tra loro una lite manesca. Gheseran quasi azzuffati». «Grazie, può andare. Ma si tenga a disposizione, può darsi che abbiamo ancora bisogno di lei», concluse Cammarata con un sorrisetto compiaciuto. Quando la donna fu uscita, Paola reagì con impeto. «Non deve dar retta a quella zitella pettegola, signor commissario. È vero che io e mio marito abbiamo avuto una discussione accesa per motivi banali. Lui voleva andare al cinema e io al concerto. Ma liti come questa ce ne sono fra tutte le giovani coppie». Milena De Magistri fece per intervenire in favore dell'amica, ma il commissario la fermò con un gesto. «Farà una deposizione giurata in questura, signorina. Domani mattina alle 9. Adesso torni a casa ed eviti qualsiasi contatto con la sua amica». Milena mi rivolse un'occhiata come in cerca di sostegno, poi si avviò senza una parola alla porta. Quanto a lei, signora Plisman, dovrà rimanere in libertà condizionata fino a che l'inchiesta sull'omicidio di suo marito non avrà chiarito la sua posizione. Le ha fatto esplicito divieto di usare il telefono e di uscire dall'appartamento, sentenziò con voluta severità il capo della squadra mobile di Venezia. Ci vediamo domani in questura, concluse secco rivolto a me. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Umberto Lenzi, Morte al Cinevillaggio, Coniglio Editore, 200 pagine, 12 euro.